Web. Incursioni nell'arte e nella letteratura. Webble, il magazine sulla cultura a Bologna. Quest'oggi vi parla del nuovo ciclo della rassegna I Classici, una rassegna storica nel panorama delle iniziative culturali a Bologna, ideata, creata tanti anni fa, 18 anni fa. Quest'anno raggiunge la maggiore età dal latinista Ivano Dionigi, che è stato anche rettore dell'Università di Bologna, con il sostegno anche di Massimo Cacciari e di altri intellettuali che peraltro insomma poi in questi anni sono tornati spesso a Bologna per questi incontri organizzati dal Centro Studi La Permanenza del Classico e che si svolgono nei 4 giovedì di maggio a partire dal 9 maggio nell'Aula Magna di Santa Lucia, nella contigua Aula Absidale in videocollegamento e poi anche con la possibilità di seguire queste serate in streaming sul sito www.permanenza.unibo.it, anche perché le richieste sono sempre molte, ben di più dei posti disponibili. Peraltro gli ingressi sono ad inviti che si ritirano il martedì prima della serata dalle 17 alle 18:30 al piano terra di via Zamboni 32. Il tema di quest'anno, i classici, per chi non avesse mai seguito queste serate, sono organizzate, impostate con una struttura per cui ci sono degli ospiti a confronto, poi ci sono degli attori che interpretano e che leggono dei testi dell'antichità greca o latina, insomma, che sono legati in qualche modo al tema e che sono stati scelti proprio dai giovani studiosi del Centro La Permanenza del Classico. Quest'anno il tema è un tema fortemente politico, patria, patrie, ed è un tema che verrà declinato attraverso appunto incontri, queste 4 serate che si aprono il 9 maggio con Xenos l'altro, con ospiti lo psicanalista Massimo Recalcati, il filologo, critico letterario Piero Boitani, perché ovviamente si partirà in qualche modo proprio dall'Odissea, da Ulisse. Boitani ha scritto vari libri, proprio dedicato una buona parte della sua attività scientifica proprio al viaggio di Ulisse, con le letture che saranno affidate a due noti attori come Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Peraltro alcuni passi verranno letti nella lingua Igbo, che è una lingua che viene parlata nella zona meridionale della Nigeria, ma parlata da un'etnia che è formata da più di 30 milioni di persone. Il secondo incontro, il 16 maggio, invece parlerà di Europa, altro tema peraltro a ridosso delle elezioni europee, con Massimo Cacciari a confronto con la politologa Nadia Urbinati, che insegna alla Columbia University, che parleranno appunto di Europa, accompagnati da passi delle Troiane di Seneca, lette da Massimo Popolizio, Elisabetta Piccolomini e Sara Putignano. Le Troiane, appunto, tragedia che in qualche modo fa emergere la violenza dei civili greci verso gli incivili e inermi barbari. Il 23 maggio invece incontro con l'antropologo Marco Aime e la scrittrice Silvia Avallone sul tema Apolis l'escluso, quindi ci si interrogherà su quanto costa per un individuo integrarsi in una comunità, su cosa deve perdere, a cosa deve rinunciare per questo processo di integrazione, e le letture saranno dal Filottete di Sofocle con Marco Sgrosso ed Elena Bucci della Compagnia Le Belle Bandiere. La chiusura il 30 maggio sarà proprio con Dionigi, insieme alla bizantinista Silvia Ronchè. Si parlerà dell'antica Roma, quindi di come l'antica Roma ha gestito anche ovviamente il processo di cittadinanza, con letture dall'Eneide di Virgilio naturalmente. Si parlerà anche della Roma, come dire, dei due imperi romani, quello d'Occidente e quello d'Oriente, e appunto con letture dall'Eneide di Virgilio affidata ad Anna Bonaiuto, straordinaria attrice del nostro teatro e del nostro cinema, con le musiche di Giuseppe Fausto Modugno. Quindi I Classici a Bologna nell'Aula Magna di Santa Lucia da giovedì 9 maggio. Maggiori approfondimenti naturalmente su www.webble.it.